vecchie, ma scorcia d'ali, cravo per non snagili, che ti ne voli, mi pac stonzi ne ogni ero spespancili, mi pac stonzi ne ogni ero spespancili, poi a capo di nata la sbaglia sfila, c'è te vecna mi dita, che tu si stava, a pronastro gisce, pur non è uccidere,